Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Se vi dico Antonio Manzini, a che cosa pensate? Beh, ovviamente a Rocco Schiavone, il suo personaggio seriale che è veramente molto molto amato dai lettori. Ogni volta che esce un suo nuovo romanzo, balza subito in vetta alle classifiche. Ed è successo anche per l'ultimo, Pulvis et Umbra, pubblicato come gli altri da Sellerio. Rocco Schiavone, lo ricordiamo, è un vicequestore romano, ma trasferito ad Aosta, città che lui non sopporta, soprattutto per il clima. Ha un carattere burbero, non è politicamente corretto, si fa anche le canne, ma nasconde anche grandi dolori, come per esempio la morte della moglie. Questo Pulvis et Umbra ha una scrittura ancora più ritmata dei precedenti. Lo stile è ancora più ironico e sarcastico. Forse, azzardiamo così, è il miglior Rocco Schiavone di Manzini. Allora, in questo romanzo ci sono due casi, l'omicidio di una transessuale ad Aosta, ma anche un caso ambientato a Roma che si trascina da tempo e che coinvolge personalmente Rocco Schiavone. Ha a che fare con il suo nemico storico, Enzo Baiocchi. È colpa infatti di Baiocchi se l'amica Adele è stata uccisa al posto suo per errore. Ma la parola passa subito ad Antonio Manzini. In realtà il caso di Roma che arriva a Civitale del Friuli è un caso che va avanti da 3 libri. E trova la sua conclusione più o meno, perché in realtà non chiude neanche questa volta in questo libro. E l'altro invece è un caso che ad Aosta nasconde delle problematiche molto serie, nasconde delle ombre che si allungano sul caso e che poi purtroppo anche sulla vita di Rocco. Però in realtà è sempre un inseguimento di ombre. Questo può unire due casi, ossia dove il colpevole o chi lo protegge in realtà diventa inafferrabile. E si sa che forza di inseguire le ombre si rischia di perdere la sostanza. C'è un caso appunto che accompagna Rocco Schiavone da diverse puntate, possiamo definire così, ed è il suo nemico, possiamo definirlo così, l'acerrimo nemico, adesso se dovessimo fare la distinzione fra bene e male, che ha portato anche all'uccisione di persone vicine a Rocco Schiavone. Come lui, come il tuo personaggio vive il fatto che questo caso non sia arrivato ancora a soluzione? Gli dà molta ansia, anche perché sembra quasi ripetersi in Rocco una storia simile che lui ha già subito con la morte della moglie. È come una sorta di maledizione che si porta dietro questo personaggio, Rocco appunto. E lui è ansioso non soltanto di chiudere e afferrare questo colpevole, ma soprattutto di salvare dal baratro il suo amico Sebastiano, che invece è il diretto interessato ad acchiappare questo che ha chiamato giustamente acerrimo nemico, si chiama Enzo Baiocchi. È una storia del passato di Rocco che torna a massacrarlo nel presente, però è più complicato di quanto lui si aspetti. La matassa è molto difficile da decifrare, da sciogliere. Rocco Schiavone è un personaggio che è sempre accompagnato dal senso di colpa. Perché hai scelto fra le sue caratteristiche di inserire anche questo elemento? Il senso di colpa e il rimorso credo che facciano parte, siano quello che a me spaventa di più nella vita, soprattutto il rimorso. È qualcosa che non puoi più correggere, che nella tua vita è accaduto e nessuno ti può più salvare, è qualcosa di ineluttabile. È una cosa che a me spaventa molto. Spaventa credo tutti, la religione cattolica prova a toglierci questo senso di colpa, ma a me piace un personaggio che si prenda sulle spalle le proprie responsabilità in maniera matura e in maniera totale. Quando uno ha una responsabilità è difficile poi risolverla, perché vivere con accanto un guaio così grosso, ossia un rimorso così grosso, diventa una vita trascinata, diventa una vita difficilissima, e sei imperdonabile, nessuno ti può perdonare, e la prima persona che non si perdona è lui. E il rimpianto invece come viene vissuto da Antonio Manzini e da Rocco Schiavone, che sappiamo essere due identità ben distinte e separate? Io mi piacerebbe arrivare all'ultimo dei miei giorni senza rimpianti. Aver provato a fare le cose che nella vita avevo voglia e desiderio di fare, cercando di non far mai male a persona alcuna, se non in maniera involontaria, ma a quel punto è un incidente di percorso, non ci posso far nulla. Mi piacerebbe arrivare alla fine così, senza rimpianti. Aver avuto una vita il più possibile serena, ma serena dal punto di vista appunto della pulizia della coscienza. In questo nuovo romanzo, si diceva anche prima, ci sono varie ombre. Accenniamo servizi segreti, insomma, come dire, una certa Italia malata. Come mai hai deciso di mettere anche questo elemento? Ma perché in realtà è per insistere sul concetto di giustizia e legge, che è un po' un tema che insegue Rocco dal primo libro. Purtroppo viaggiano su due binari diversi. Il concetto di giustizia è una cosa, la legge è tutt'altro. E l'interpretazione della legge è qualcosa di difficile, di umano e quindi fallace. Ancora di più in questo libro, in cui il senso di giustizia si piega alla ragion di Stato. Ossia c'è un peso che su una bilancia pesa molto più dell'altro e quindi bisogna andare tutti in quella direzione, almeno tutte le persone che lavorano per lo Stato. Che poi sia giusto o no, io non lo so, mostro soltanto come stanno le cose. È l'interrogativo che insegue Rocco da sempre. Spesso i giallisti, i noiristi utilizzano proprio questo genere letterario per raccontare qualcosa che in un saggio, in un'inchiesta non si può provare, insomma non ci sono le prove, allora attraverso la fiction racconto qualcosa di molto verosimile, di cui però purtroppo non ho le prove. C'è quasi anche una sorta di impegno da parte di alcuni scrittori in questo senso. Tu fai parte di questi scrittori, senti che in questo romanzo hai voluto raccontare qualcosa che non potevi raccontare in altro modo? Ma io credo che ognuno utilizzi il genere soprattutto per raccontare dei personaggi, delle difficoltà dell'essere umano, della psicologia dell'essere umano e raccontare questo personaggio inserito nel paese che viviamo ogni giorno. È una gran libertà questa, se ci pensi, perché tu riesci in maniera molto semplice ad entrare nel tessuto connettivo sociale del tuo paese con un delitto o con qualcosa di terrificante, è niente più semplice raccontarlo. Quello che preme a me è raccontare l'anima delle persone, soprattutto raccontare gli ultimi della classe, quelli che stanno sempre in fondo, che sempre impreparati, che prendevano ai miei tempi gli schiaffi dalla maestra, gli ultimi del gruppo, sono quelli un po' dimenticati, è l'umanità che mi interessa. E mi piace parlarne attraverso i gialli perché quell'umanità di solito viene coinvolta nelle storie più oscene di questo paese. A proposito degli ultimi, ricordo bellissimo romanzo Tuo Orfani Bianchi, Rocco Schiavone non c'entrava niente, si parlava di tutt'altro. Ecco, queste parentesi che ti prendi da Rocco Schiavone sono necessarie per la tua vita di scrittore? Pensi di prendertene altre? Ma la voglia di raccontare storie non per forza legate a un personaggio c'è sempre, credo ci sarà sempre. Ci sono delle storie che mi preme raccontare, mi diverte oppure mi angoscia raccontare e non ne posso legare sempre a questo personaggio, che però ringrazio perché se non ci fosse stato Rocco Schiavone a nessun editore sarebbe mai venuto in mente di pubblicare altre storie mie. Sai che cosa? Che purtroppo a volte non combaciano, Orfani Bianchi non combaciava con nulla con Rocco Schiavone, per dire, era tutt'altra storia. Ovviamente ce ne sono altre di storie che mi piacerebbe raccontare una storia della ritirata di Russia, per esempio, e forse la bellezza di fare questo lavoro è proprio questa, che ti puoi concedere anche delle parentesi, chiamiamole così, però necessarie, belle, divertenti, che sono delle avventure completamente diverse, ma non meno interessanti, faticose, perché poi costa fatica anche questo, ma soprattutto inserirle, che so, in una serie di libri seriali, non che quelli non costino fatica, però deragliare completamente, andare a parlare d'altro, cercare quindi anche un ritmo diverso, una narrazione diversa, anche delle parole diverse, e diventa complicato, ma è una bella sfida, insomma, è un lavoro che uno fa, e quindi se me lo concedono, sì, come no, mi piacerebbe raccontare altre storie che non siano solo di Rocco. È innegabile comunque che il nome di Antonio Manzini sia legato al personaggio di Rocco Schiavone, così come è innegabile che, oltre al successo dei libri, il successo dei libri sia stato, come dire, alimentato anche dalla fiction TV che è stata trasmessa dalla Rai. C'erano state delle polemiche sul personaggio di Rocco Schiavone perché un uomo dello Stato, un poliziotto, si faceva le canne, eccetera, eccetera. Per le prossime serie che andranno in TV, hai dovuto subire, come dire, delle limitazioni sulla sceneggiatura o comunque c'è stata una certa libertà di movimento? Assoluta libertà di movimento. la narrazione è libera in questo paese, soprattutto se tu non vuoi, nessuno di noi assurge a raccontare un esempio di uomo, racconta un poliziotto, non il poliziotto. La libertà è quella di poterlo raccontare come meglio si crede. Io come narratore sono libero di raccontare quello che voglio. Chi invece fa un altro mestiere legato allo Stato e rappresenta una figura, forse invece deve attenersi al suo mestiere e fare il suo mestiere per cui lo paghiamo, e quindi essere una persona estremamente seria, estremamente onesta. Adesso non so chi ha fatto la polemica, né me ne frega niente, spero e credo, anzi solamente sono delle persone oneste, ma si attengono a quello. Io scrivo, loro parlano. Che rapporto vivi col tuo personaggio seriale? Perché insomma, lo dicevamo prima, ogni tanto ti prendi qualche parentesi per scrivere di storie di ultimi, però di altri personaggi. Cos'è, un rapporto conflittuale? Ogni tanto ti sta sulle scatole? Vabbè, come anche nei migliori matrimoni d'amore, ogni tanto uno ne ha le scatole piene, se devi fare una settimana da solo, che poi fortifica il rapporto sicuramente. E così succede forse anche con un personaggio che ormai fa parte della tua vita. Ogni tanto devi prendere una vacanza perché non lo sopporti più, ma è normale, credo che sia umano. Succede con tutte le cose che ti stanno a cuore. Devi ogni tanto trovarti delle vacanze. Non c'è amor se non v'è libertà, cantava Verdi, per cui chi siamo noi per dire di no? Rocco Schiavone ha la sua lista delle rotture di scatole, chiamiamole così. Antonio Manzini ha questa lista e che cosa c'è al primo posto? No, guarda, è quella di Rocco. In realtà la lista di Rocco è mia. Vabbè, ma tu non devi risolvere casi. Lo dici tu. Che casi risolvi? Quelli che attengono al mio lavoro. Per esempio fare un'intervista. So infatti che non ami particolarmente le interviste. Sto scherzando. No, ognuno di noi c'ha il caso sul gruppone. Tu nella vita ce l'hai, quello di intervistare me, è un caso sul gruppone. Ognuno ce l'ha, dai. Io ce l'ho, non lo posso dire perché attira al mio lavoro e non si possono dire queste cose, però ce l'ho. Non c'ho il delitto, però. Il bar senza l'algida, per me, quando mangiavo i gelati, era una rottura di coglioni molto alta. Quando fumavo i tabaccai chiusi, era terribile. La sabbia nelle vongole, i bambini che urlano al ristorante, i bambini che urlano in generale. Radio Maria, per esempio, ogni volta che io a Roma sento la radio, entra Radio Maria. Per me è una gran rottura di coglioni, settimo livello più o meno. Tendente all'otto, quando stavo, per esempio, canticchiando una canzone che mi piaceva in radio. Entra il rosario, no? Sono mie quelle rotture lì, le ho mutuate a Rocco, perché mi sono permesso questo regalo, insomma, e Rocco le ha accolte più o meno. Ecco, a proposito delle interviste, noi giornalisti ovviamente tendiamo a farti un po' le stesse domande, no? Anche perché quando c'è un personaggio seriale, il personaggio più o meno rimane lo stesso, anche se ha un'evoluzione, cambiano le storie, ma su delle storie che sono gialle non si possono fare tante domande. C'è qualcosa che noi giornalisti o anche il pubblico non ti ha mai domandato e tu ti sei chiesto, ma perché non me lo chiedono mai? Un appuntamento a cena, per esempio, non me l'hanno mai chiesto. Allora te lo chiedo io. Cioè, stasera andiamo a mangiare tutti insieme, sicuramente. Va bene, allora è ufficiale che io e Antonio Manzini questa sera andremo a cena insieme. Perfetto, ok. Chi paga? Sellerio. Questo era Antonio Manzini che ci ha parlato di Pulvis et Umbra, il nuovo romanzo con protagonista Rocco Schiavone, pubblicato da Sellerio. Una breve pausa, poi parleremo ancora di libri. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova! Pantera.it, col TH. Vi presenta Il Cacciatore di Libri. E dopo Rocco Schiavone di Antonio Manzini veniamo ad un altro personaggio seriale, Lolita Lo Bosco, commissario a Bari, creata dalla penna di Gabriella Genisi. Nell'ultimo romanzo, Dopo tanta nebbia, pubblicato come gli altri da Sonzogno, Lolita Lo Bosco è stata promossa questore e deve trasferirsi a Padova. Ecco come Gabriella Genisi descrive il suo personaggio. È sicuramente una donna passionale, credo che questo sia il tratto determinante della sua personalità, e poi è abbastanza integerrima per quanto riguarda sia il lavoro che la vita amorosa. Non fortunatissima in amore, ma molto tenace per quanto riguarda la risoluzione dei casi. Nei tuoi libri si seguono sempre sia le vicende professionali, quindi la risoluzione dei casi di Lolita Lo Bosco, che le vicende sentimentali. Come mai scegli sempre di seguire parallelamente entrambi gli aspetti? perché non mi sento giallista, quindi nei miei libri c'è molto altro. Il giallo è una sorta di lente per focalizzare l'attenzione su altre cose, e parallelamente racconto la vita privata di Lolita, perché ognuno di noi, oltre a una vita professionale, ha soprattutto una vita privata che si interseca poi con quella lavorativa, e allora merita di essere raccontata. Il nome di Lolita Lobosco è inevitabilmente legato a Bari, perché insomma lei ama tantissimo la sua città. In questo romanzo però, dopo tanta nebbia, la troviamo a Padova, perché viene promossa questore, va a Padova. La sua reazione non è esattamente positiva. Infatti, diciamo che il libro è diviso un po' in due parti, la parte di Padova e poi la parte del ritorno a Bari. L'incipit è: che Padova non era cosa per me, c'era voluto poco a capirlo. Sarà stato per quell'umido che mi mortificava i capelli, o per le mancanze che avvertivo come un peso sul petto, il sole, l'odore della focaccia tutte le ore, il blu oltremare di Bari. Insomma, è uno shock per Lolita arrivare a Padova. Decisamente uno shock, perché Bari e Padova sono città completamente differenti nei colori, nei suoni. Bari è estrema, è colorata, è ariosa e luminosa, e per quanto Padova invece è più intimista, più cupa, con questi portici che portano un po' a nascondersi anziché che mostrarsi, e quindi lo shock è inevitabile. Lo risolve quando una sera trova una panzerotteria dove potrà rifugiarsi dopo il lavoro, ritrovando i suoi sapori abituali. Insomma, Lolita Lobosco non può fare a meno di Bari e soprattutto del cibo barese, perché in tutti i romanzi la vediamo alle prese con focaccia, panzerotti, tant'è vero che alla fine dei tuoi romanzi lei dà sempre alcune sue ricette specifiche. La ricetta della focaccia, che segreto ha? Visto che sul Facebook dell'autrice, di Gabriella Genisio, vedo sempre delle foto di focacce meravigliose. Qual è il segreto della focaccia di Lolita? Il segreto è sicuramente un pochino di patata, che ci metto sempre, e poi l'amore, quello sicuramente con cui ogni volta l'impasto. E quindi, insomma, se si leggono i libri di Gabriella Genisi, si trovano alla fine appunto anche queste ricette, si possono sperimentare. Tornando a Lolita Lobosco, va a Padova, deve affrontare un caso, questa volta è un caso che ha a che fare anche con il bullismo, perché di fatto deve indagare sulla scomparsa di uno studente da un liceo prestigioso di Padova, della città. Come si trova a indagare, insomma, nell'ambito anche del bullismo e del cyberbullismo giovanile? Non è semplicissimo questo caso, anche perché Lolita, appunto appena trasferita, si muove difficilmente nel nuovo organico. Poi il ruolo di questore è differente da quello di commissario, è molto meno operativo, e il caso che deve risolvere è abbastanza inquietante: la scomparsa di questo ragazzo, ma nessuno sembra cercarlo. E ho voluto raccontare di bullismo e cyberbullismo perché è uno dei temi caldi, purtroppo si registra un caso al giorno, tant'è vero che adesso per questa emergenza da maggio di quest'anno c'è una legge sul bullismo, quindi il governo ha preso coscienza di questa problematica, e io racconto un po' gli effetti collaterali e i drammi legati a questa problematica. Lolita, però, l'abbiamo detto, insomma, è legata tantissimo alla sua città, a Bari, farà di tutto per tornare a Bari, tant'è vero che dalla metà in poi del romanzo avrà l'occasione e la fortuna di ritornare nella sua città. Anche in questo caso, però, non sta mica tranquilla. Sì, anche finalmente torna dopo un anno a Padova, dopo però aver fatto delle rinunce abbastanza importanti, e il caso che si trova ad affrontare a Bari è quello di una musicista molto bella di origine toscana che scompare. Si pensa, come nel caso del ragazzino padovano, ad una fuga, quindi la fuga è un po' il filo conduttore dei due casi, ma anche qui c'è qualcosa di più inquietante, di più torbido, e quindi Lolita nella sua Bari, quindi comunque più forte, si tuffa in questo nuovo caso e riesce a risolverlo. Lolita Lobosco potrebbe diventare un personaggio televisivo, nel senso che i diritti TV sono stati opzionati da Luca Zingaretti. Insomma, l'attore che interpreta Montalbano ha acquisito i diritti per Lolita Lobosco. Sappiamo che chiaramente passa un po' di tempo fra l'acquisizione dei diritti e poi la produzione vera e propria di una fiction. Come te la immagini in TV questa Lolita Lobosco? Beh, a me è sembrata una sorta di segno del destino, perché io ho immaginato Lolita guardando il viso di Luca Zingaretti in televisione, che interpretava Montalbano, e quando lui mi ha telefonato dicendomi sono pazzo dei tuoi romanzi, mi piacerebbe fare una fiction, quasi non potevo credere, ho pensato a un miracolo. Quindi sì, so che i tempi sono ovviamente quelli legati a queste vicende, quindi porteranno via un po' di tempo, ma immagino Lolita con il viso di Luisa Ranieri, e credo che sia perfetta, perché hanno la giusta passionalità. Poi Luisa è napoletana, Lolita è napoletana per metà, quindi credo che questo tratto le accomuni non poco. C'è molta meridionalità in Lolita Lobosco, questo suo essere barese, queste sue forme morbide, questo suo essere legata anche al cibo, alla preparazione del cibo, al modo di fare, al modo di parlare, perché lei parla sempre non in dialetto ma con una costruzione delle frasi che è tipica di chi vive a Bari, e lo dico da barese, insomma, quindi riconosco molte, molte cose. Secondo te è questa la cosa che piace di più ai tuoi lettori di Lolita Lobosco? Credo di sì, questa maternità che viene fuori da Lolita, questa passionalità, forse a tratti sudamericana. Piace molto per questo alle lettrici, perché si identificano con lei anche nelle problematiche sentimentali, e piace agli uomini perché Lolita ha un rapporto conflittuale con gli uomini, e quindi è una sorta di sfida che il lettore fa con la protagonista. E sicuramente il linguaggio piace, è un linguaggio che o lo ami o lo detesti, quindi mi capita di vedere a volte dei giudizi dei lettori dove, insomma, non sono così amanti del genere, però sono riuscita a entrare in sintonia con molti di loro, e quindi amano il personaggio. E questa era Gabriella Genisi, ora in libreria con Dopo tanta nebbia, pubblicato da Sonzogno. E Gabriella Genisi sarà una delle ospite del Women's Fiction Festival, un festival di letteratura che si svolge a Matera dal 28 al 30 settembre. È un festival internazionale di narrativa femminile, arrivato alla 13ª edizione. Fra le autrici italiane presenti c'è per esempio Teresa Ciabatti, che è stata finalista al Premio Strega 2017, Antonella Lattanzi, Carmen Pellegrino. Non mancano però anche gli scrittori uomini, come Lorenzo Marone e Federico Baccomo. Trovate naturalmente tutto il programma su womensfictionfestival.com. Anche per oggi è tutto, grazie in regia a Filippo Aureggi. Vi ricordo che trovate tutte le puntate del Cacciatore di Libri in podcast su radio24.it. Se volete sempre essere aggiornati potete seguirmi su Twitter o anche su Facebook, pagina ufficiale Il Cacciatore di Libri - Radio24. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.